Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. E con quella di oggi approdiamo alla puntata numero 240 del Soundcheck, il suono della musica, ovvero la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi in contatto da Gegè Telesforo e buonasera al nostro comunicatore multimediale di nuova generazione 3.0, oserei definirlo, Francesco Tromba. Ciao a tutti. Allora, subito vorrei consigliare agli appassionati di musica in ascolto di procurarsi carta e penna per quelli old school, quello che facevo io da ragazzino quando ascoltavo la radio. Oggi invece sugli smartphone c'è la possibilità, attraverso questa app chiamata Shazam, di poter individuare con qualche secondo il brano in airplay. Sì, oppure potete anche seguirci poi sulle pagine Facebook, che noi pubblichiamo sempre la scaletta se state guidando. È vero, anche su Twitter, devo dire, abbiamo preso questa sana abitudine di pubblicare in anticipo sulla proposta live del nostro programma la scaletta che abbiamo realizzato naturalmente già da qualche giorno. E da qualche giorno sono in fissa con un repertorio nuovo di zecca, mio caro Francesco. È per quello che stiamo consigliando di utilizzare Shazam, perché oggi suoneremo oggi e domani tutta musica nuova e credo anche buona. Sì, tutta musica di un livello incredibile, soprattutto, cioè, siamo riusciti a trovarne veramente di fantastiche. Sì, poi questa cosa che abbiamo attivato con Twitter ci sta mettendo in bella mostra a livello internazionale, quindi amici di artisti ci stanno spedendo direttamente il loro materiale, quindi noi che consideriamo la musica libera oggi non facciamo poi tanta attenzione se la produzione discografica in oggetto è stata pubblicata da una multinazionale, da un indipendente. Noi suoniamo tutto quello che ci capita a tiro e che ci piace. Anche perché ormai in America, diciamo, a livello proprio internazionale, magari non pubblicano neanche il disco, semplicemente pubblicano dei singoli di prova per trovare poi magari un'ispirazione. Sì, per sondare il terreno, e comunque sono dei singoli che vengono anche messi in vendita su Bandcamp, SoundCloud, sì, siti dei quali abbiamo abbondantemente parlato qui al nostro Soundcheck. Direi però di non perdere le buone abitudini. Intanto ricorderei che abbiamo lanciato questo Soundcheck Airplay Award per celebrarci e anche per ringraziare personalmente gli artisti che hanno regalato il suono a questa trasmissione. Sì, anche per la voglia di fare una classifica che alla fine tutti abbiamo, no? Sì, un piccolo sondaggio fatto insieme ad alcuni esperti e poi anche i voti che arriveranno via mail all'indirizzo soundcheck@radio24.it, alle pagine Facebook che noi abbiamo aperto, Twitter, da parte del nostro pubblico. Sì, quindi anche il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze. Allora, dicevo, non perdiamo le buone abitudini e veniamo al repertorio in italiano. Hai selezionato due artisti, due tracce, per quale motivo? Sì, perché sono belle da suonare, bravo. Prima di tutto, e poi anche perché dietro c'è tutta un'operazione super contemporanea. Cioè, ad esempio, gli Africa Unite, che è il primo gruppo che andremo ad ascoltare, ha pubblicato questo nuovo disco che si chiama Il Punto di Partenza, e praticamente hanno regalato il disco in free download sul loro sito. Già nella prima settimana hanno fatto più di 20.000 download, quindi la loro strategia è quella di regalare il disco per far circolare la musica, liberare la musica, per poi avere un ritorno, sì, a livello di concerti. Abbattere le barriere, no, sì, della distribuzione fisica, regalando in questo modo, più che regalare direi dare la possibilità di ascoltare senza barriere, come dicevo, il suono di Africa Unite, che è una band che nel DNA ha la Giamaica. Sì. Allora, si intitola L'attacco al tasto. Che significa? È l'inizio di una canzone, non l'attacco al tasto. No? Ah, così è? Sì, Africa Unite al Soundcheck di Radio 24. Con un tocco maturo, la tecnica fluida, il suono plasma all'aria. E se un'acciaccatura scappa la isoli, ore ed ore sulla stessa battuta. Partita senza rivincita, in salita. E adesso? E tutto ciò che impari si trasmetterà da un polpastrello incerto alla tua storia. Il tasto fiora tocchi si trasforma in aria, in cibo, vita. Il suono degli Africa Unite, band italiana con la Giamaica nel DNA, lo abbiamo detto, si intitola L'attacco al tasto, il brano che vi abbiamo presentato, dall'album Il punto di partenza. Un nuovo inizio per Africa Unite, ovvero una nuova mentalità per affrontare la distribuzione discografica, e quindi anche voi avrete la possibilità di potervi scaricare in free download l'album completo degli Africa Unite, che hanno anche un'altra iniziativa, quella di regalare il loro CD fisico ai concerti. Sì, però l'hanno regalato solo nei primi due live che hanno realizzato. Poi ci hanno ripensato. Che magari stampare tutte le copie poi diventa un investimento importante, no? Magari ti vengono 1000 persone al concerto, 1000 copie. Costa. Beh, comunque, se gli Africa Unite, che sono degli amici, ci siamo incontrati diverse volte nell'arco di 35 anni, 30 anni di carriera, come dicevi tu, se hanno la possibilità di contattarci, volentieri ci facciamo raccontare qui al Soundcheck il concept di questa operazione. Andiamo invece alla prossima artista italiana, per poi approdare alle novità internazionali. Sì, la prossima artista si chiama Meg, come conosco benissimo. Sì, Meg viene dai 99 Posse, sono cresciuto praticamente con la sua musica, la loro musica. Tu sai che noi abbiamo anche lavorato insieme, ti sembra una cosa improbabile? Veramente, non lo sapevo. Sì, ma molti anni fa io scrissi un brano intitolato Volere e Potere, una sorta di ragamuffin onomatopeico, quindi una sorta di raga sket, fammelo definire così, e invece per la parte proprio rap chiamai quelli che allora lavoravano insieme, Bisca, 99 Posse, quindi c'era Zulu, e in studio arrivò anche la giovanissima Meg, giovanissima allora, adesso è una, come dire, una veterana. Sì, è matura. Matura, ecco, è da vocalist matura, che cosa ci presenta? Ha fatto un nuovo disco che si chiama Imperfezione, come anche il titolo del singolo che poi andremo ad ascoltare. Praticamente questo disco l'ha creato a New York, perché lei si è trasferita per un periodo a New York, dove ovviamente si è fatta stimolare dalla città, che è abbastanza piena di diverse sfaccettature musicali. Lei racconta che andava anche alle prove della New York Philharmonic Orchestra, dove puoi pagare $20 per assistere alle prove. Lei ci andava spesso, tant'è che alla fine i gestori della New York Philharmonic l'hanno addirittura chiamata per chiederle se voleva finanziare, voleva fare una donazione all'orchestra. E proprio tramite le donazioni che nasce questo disco, perché nasce dal crowdfunding, cioè si può mettere in rete la volontà di realizzare un disco da parte di un artista e chiedere al proprio pubblico, ai propri fan, di finanziarlo. Di diventare in qualche modo producer dell'operazione. Sì, di diventare dei mecenate più che altro. Ecco. Il ruolo del mecenate. E quindi Meg ha fatto questo. Sì, ha avuto un riscontro importante, tanto che proprio ha realizzato tutto il disco con il crowdfunding. Benissimo, questa è la voce di Meg, che salutiamo. Il brano è Imperfezione, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Abbiamo presentato già da qualche settimana il talento di Quabs con Perfect Ruin, qui invece lo stesso Quabs ci presenta Pray for Love. Non perdete d'occhio, anzi di orecchio, il talento di Quabs, uno dei protagonisti della scena inglese attuale. L'album credo sia stato appena pubblicato in Inghilterra, speriamo di avere un riscontro anche nel nostro paese, magari con l'attività concertistica, perché questa è gente che da noi deve arrivare e farsi notare. È arrivato in realtà, però forse ha fatto solo l'apertura di Sam Smith, dei concerti di Sam Smith in Italia un po' di mesi fa. No, a me piace perché è un artista completo, un artista che ha studiato, una voce splendida, profonda, abbastanza duttile, malleabile e versatile, quindi si può cimentare su un repertorio che può andare dal jazz al gospel oppure al pop di classe, che è quello che poi realizza lui personalmente per la sua prima produzione discografica intitolata Love Plus War. Eccoci qua, questo è il sound di Quabs al Soundcheck Radio 24 e siamo pronti per presentarvi un'altra novità, il singolo che anticipa la pubblicazione del nuovo album intitolato Blood, in uscita il 31 di luglio sul mercato internazionale, quindi la nostra è una vera e propria anteprima per Unstoppable, il titolo del brano che ci viene proposto dalla bravissima Lehan LaHavas. Abbiamo anche presentato Lehan LaHavas qui al Soundcheck, mi è arrivato il momento di celebrarla con un brano molto bello, molto particolare, che insomma ci fa ben sperare su questo nuovo album. Sì, e anche lei è una mistura strana, no? C'ha un padre greco e la madre giamaicana ed è cresciuta in Inghilterra. Sì, è cresciuta in Inghilterra, tra l'altro viene da una famiglia di musicisti, perché mi pare che la mamma, non so se come vocalist o come musicista, ha collaborato con Jill Scott, con Mary J. Blige, il papà è un polistrumentista e quindi da giovanissima si è avvicinata alla musica suonando la chitarra da autodidatta già dall'età di 7 anni, poi ha fatto il percorso di studi, quindi a 18 anni ha capito che effettivamente aveva un talento e poteva puntare anche lei su questo tipo di attività. Sì, poi un giorno lei e i suoi genitori hanno organizzato una festa a casa dove erano invitati tutti i musicisti, proprio porte aperte. E a un certo punto si sono ritrovati con Prince Roger Nelson che suonava nel loro salotto. Cioè è arrivato a questo party, è arrivato Prince. Sì. Che evidentemente aveva dei concerti a Londra. Beh, succedono queste cose, eh? Sì, evidentemente. Succedono così gli incontri. Ma d'altra parte, come vedi quel Wurlitzer lì? Sì. Vecchio Wurlitzer. Quello lo hanno suonato diversi musicisti di fama internazionale, però ne voglio ricordare uno, cioè più o meno 2 anni fa, prima della consacrazione con il Grammy Award per Black Radio, Robert Glasper con tutti gli Experiment erano qui e abbiamo fatto una jam. Mica uno qualunque. No, io ho anche registrato tutto, Bravo, bravo. Infatti ho fatto bene, prima o poi farò il bootleg. Sì, è documento storico. Documento storico, le cose succedono con la musica, succederanno anche oggi qui al Soundcheck Radio 24, perlomeno ricordatevi di tenere sempre carta e penna alla mano, oppure Shazam attivato, perché passiamo tantissime novità. E allora diamo il via a Lehan LaHavas con Unstoppable, singolo che anticipa la pubblicazione il 31 luglio di Blood. I'll wait a bit longer while we are getting stronger. I know it's taking a time to heal. We'll be unstoppable. Don't know what I did it for. I needed to know that it was always real. Our heads held high when we walked down the line, honey, on and on through the clear night sky. Let's be a peaceful flight. Soundcheck. Il suono della musica. To follow the road, it's how it has to be. I'd rather hit the road than have the road hit me. giornata di novità qui al Soundcheck di Radio 24, e questo era Two for the Road, brano che troverete in questo nuovo album intitolato Chain of Days per la Sony, etichetta Oki. Protagonista questa signorina norvegese. Come signorina? Signorina, non è una signorina, non va bene. Non si dice più, a parte sbagliato. Che comunque non è più una signorina vera e propria. Ah sì, e beh. È una donna matura. Dice, non è più di primo pelo. No, è una donna matura. Una MILF, va bene. Come la chiamiamo? Silje Nergard, più o meno? Sì, più o meno ci siamo. Beh, potrei utilizzare anche la pronuncia italiana, dovrebbe essere Silje Nergard. Comunque Silje Nergard per noi è artista norvegese, classe 1960. Hai ragione, non è più una signorina. Comunque non si dice l'età. Neanche l'età, ho sbagliato due volte. Sei scostumato. Va bene. Comunque questa signorina, questa artista, si è fatta notare anni fa realizzando un brano con la partecipazione di Pat Metheny, brano intitolato Tell Me Where You're Going, che scalò anche le classifiche discografiche in Giappone, e di lì partì la carriera di questa artista assolutamente sconosciuta nel nostro paese, ma molto apprezzata in Nord Europa, perché fa tanti concerti a cavallo fra il jazz e la sua musica, che come avrete notato ha qualcosa di country americano, country contemporaneo. Sì, in realtà mio padre aveva un disco in macchina suo, stranamente. Tuo padre? Sì, mio padre. Della signorina in persona? Sì, sì. Incredibile. Allora, e tra l'altro viene da paesi che sono molto attenti e rispettosi nei confronti della musica e dell'arte in genere. Sì, anche finanziano molto gli artisti che lo meritano. Beh, ci raccontò Rita Marco Tulli, la nostra eccellente pianista nota in tutto il mondo, che facendo da giurata a un concorso per pianisti, però non in Norvegia, credo in Svezia, in palio, messo in palio dalla banca che sponsorizzava questo concorso, c'era proprio un bellissimo pianoforte a coda Steinway & Son, che non sai, costa praticamente, non so, oltre i 100.000 euro sicuramente. Tra l'altro poi è uno strumento che fa la differenza. Assolutamente fa la differenza. E la cosa bella è che tutti i ragazzi in concorso suonavano questo pianoforte augurandosi di vincere la manifestazione, il contest, per portarselo a casa. Infatti il pianista che vinse poi il concorso si ritrovò due giorni dopo questo Steinway & Son pagato dalla banca, che naturalmente pagò anche il trasportatore, perché costa pure quello portarlo poi magari, a casa. Magari vivi in 50 metri quadri e devi pure cambiare casa. Per il pianoforte, hai ragione. Non avevo pensato a questo imprevisto. Però torniamo alla musica. Okay? Sì. Che dici, vogliamo passare un'altra cosa tratta da questo album della signorina? Sì, ma signorina no. Va bene, di Silje Nergard, album Chain of Days. Ecco, questo brano è ancora più country, se vogliamo, però molto ben realizzato. Sì, molto delicata la signora. Chissà che non voglia trasferirsi, che so, nel Tennessee. No. Credo, fa troppo caldo per lei. Sta bene in Norvegia. Buckle Your Shoe, qui Silje Nergard al Soundcheck. E poi facciamo una pausa perché arriva l'informazione di Radio 24. One, two, buckle her shoe, tell her she must follow you. Three, four, tell her that you're the one she's been waiting for. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo collegati con il Groove Master Studio di Radio 24 per questo appuntamento del Soundcheck, un appuntamento dedicato a novità, nuovi artisti, nuova musica. In questi giorni abbiamo ascoltato di tutto e di più, però sono felice, mio caro Francesco Tromba, di presentare alcuni artisti nuovi di pacca al pubblico di appassionati di musica di Radio 24. Sì, che magari colpevolmente non sono famosi in Italia, però magari a livello anche americano sono quelli che stanno un pochettino più in ombra, però sono quelli che poi alla fine fanno la differenza nel suono, ad esempio, di Mary J. Blige o di Jill Scott, di questi grandissimi campioni. Ecco, è il caso anche di questo pianista, compositore, assolutamente, forse non è neanche tanto famoso negli Stati Uniti, sì, anche se viene da lì. E infatti Daniel Crawford, questo è il nome di questo artista, ha pubblicato tutta la sua mercanzia musicale su Bandcamp e SoundCloud, quindi non appartiene ancora a una casa discografica ufficiale, ma in qualche modo glielo auguriamo, anche se adesso credo che i nuovi artisti neanche ci tengono più di tanto. Sì, anzi è quasi un ostacolo in alcuni casi. Allora, chi è Daniel Crawford? Pianista, polistrumentista, producer con una passione. Ecco, lui ha la passione per quello che è stato il rivoluzionario dell'hip hop e soprattutto della ritmica contemporanea, producer, DJ e musicista chiamato Jay Dilla. Sì, è anche un appassionato di Michael Jackson, tanto che ha fatto un disco tributo anche a Michael, Jackson. Ne ha fatti diversi di tributi, sì, ma in modo particolare credo che abbia fatto addirittura 7 album dedicati alle ritmiche di Jay Dilla. Chi è Jay Dilla? Forse dovremmo spiegarlo. Ecco, senza Jay Dilla non avremmo avuto D'Angelo, Robert Glasper, Erykah Badu, Mary J. Blige, Jill Scott, perché è stato proprio lui, smanettando sui suoi computer, a trovare una nuova chiave per il ritmo base della black music, quell'andazzo backbeat un po' sornione e anche un po' storto, fammelo dire, in alcuni momenti. Sì, quindi grazie a lui tutti questi grandissimi artisti hanno suonato al 100% delle loro possibilità. E infatti Daniel Crawford recupera il messaggio musicale di Jay Dilla per realizzare così la sua produzione e approdare a un nuovo album. Come si intitola il nuovo album? The Awakening. Quindi il risveglio. Sì, si è svegliato. Si è svegliato anche Daniel Crawford, che ha svegliato anche noi, perché ci sono un paio di tracce veramente forti. Poi magari sai che facciamo? Domani voglio proporre una versione di Daniel Crawford di Happy di Pharrell Williams. Sì, meravigliosa. Perché è anche un producer. Fa il producer, sì, soprattutto è un producer, bravissimo. Allora, Daniel Crawford celebra Madre Africa con una sua composizione intitolata Home, chiamando come vocalist un altro campione contemporaneo come Cleveland P. Jones, che noi abbiamo conosciuto nelle escursioni musicali di Ahmed Sirur, altro producer di Brooklyn. Sì, e anche Cleveland P. Jones è molto attivo su Bandcamp, quindi diciamo sono un po' questa nuova generazione che cerca quasi di fuggire dalle case discografiche. Daniel Crawford con Cleveland P. Jones in Home, qui al Soundcheck di Radio 24. I wanna go, yes I wanna go to the place where I belong, to the place my soul longs for, to the place I call. Soundcheck, il suono della musica. Anche questo brano io lo trovo delizioso, Little Black Train, per la voce di un'altra artista non tanto conosciuta qui da noi, si chiama Indra Rios Moore, sangue misto per questa vocalist che credo abbia un papà di origini africane e mamma portoricana. Sì, anche delle origini siriane il padre. Perché vuoi essere preciso? Eh sì, perché anche la Siria c'entra dentro. Dentro, vabbè. tra l'altro era un bassista di jazz abbastanza quotato, collaborato collaborato con Solly Rollins, Jackie McLean, per dire, anche Elvin Jones. Hai capito, non vengono mai fuori a caso questi ragazzi. No. Tra l'altro lei ha fatto anche, ha studiato sia canto classico, sia comunque poi si è formata sui dischi della madre, che era una grandissima appassionata di soul e jazz. L'ha anche convinta a entrare in un college di musica. Sì, esatto. La storia di... A parte che comunque questo disco sta segnando la rinascita della Impulse, la vecchia etichetta. Quella di John Coltrane. Esatto. Piano piano si stanno pubblicando anche della musica nuova, perché prima semplicemente ripubblicavano i classici di una volta, del jazz. La storia di Indra è veramente bellissima, perché lei faceva la cameriera in questo bar lì a New York. Sì, un localino a New York, e come spesso succede si è ritrovata con dei musicisti che l'hanno ascoltata e l'hanno assoldata subito, e due settimane dopo era già in giro a fare i concerti. In realtà si è innamorata di un sassofonista danese e poi si è trasferita lì in Danimarca, si è ritrovata così in Danimarca per amore. Ha messo su un trio insieme appunto quello che poi diventerà suo marito e un suo amico che faceva il bassista. Hanno raggiunto la nomination come best vocal album in Danimarca. Quindi lei l'America l'ha trovata in Danimarca. Sì, poi sono tornati in America insieme a suo marito, insieme al figlio che nel frattempo avevano fatto, e hanno investito tutti i loro soldi nel produrre questo nuovo disco. Ma quante ne sai, tromba? Ma dove vai a prendere tutte queste notizie? Si cerca, basta cercare. Ma è bello, perché sei curioso. Sì. D'altra parte sei anche un comunicatore 3.0. Se non si è curiosi, la musica rimane sempre quella, sempre uguale, suona uguale. No? Vabbè, questo tanto per introdurvi il mondo e i suoni di Indra Rios Moore, brano intitolato Little Black Train qui al Soundcheck. Ma passiamo a un'altra novità, quindi ancora una volta tenete carta e penna sotto mano, perché questa artista, insomma, credo che a te piaccia tantissimo, e anche a me per la prima volta che ho sentito il brano sono rimasto di stucco. Sì, hanno un sound veramente impressionante, sono fortissimi. Sì, anche qui si risente un po' di tutto quello che hanno ascoltato e metabolizzato dall'infanzia questi ragazzi, e in modo particolare la leader di questa band, che ha un nome particolare. Lei si chiama Melanie Charles, e la band ha un nome che è tutto un programma, non mi piace tanto il nome. Sì, Rat Habitat potrebbero cambiarlo. Sì, che è l'habitat del topo. Sì, del ratto. Del ratto. Allora, Melanie Charles, cantante, autrice, compositrice, flautista, arrangiatrice, producer, attrice e insegnante di musica. Che vuoi più dalla vita? Ed è anche una bellissima ragazza. È sposata? Non lo so, credo di no. Figli? Non credo. Vabbè, ma queste cose non le sai. Sai tutto, non sai le cose più importanti. No, non credo che abbia dei figli. Allora, che mi racconti di lei? Ha origini haitiane. Si risente molto anche sia nella sua fisicità sul palco, sia comunque anche nei suoi capelli, che sono importantissimi, e anche nella sua musica ovviamente. È una diplomata in flauto, è fortissima sia come cantante che come musicista. E allora la bravissima Melanie Charles, che però ha avuto un contatto con il nostro paese. Sì, con Nicola Conte, che è un grandissimo scopritore di talenti. Bravo Nicola, poi ce la presenterai la signorina Melanie Charles per tanti motivi, ma non ne parliamo adesso. Io direi invece di ascoltare questo album che anticipa la pubblicazione dei Rat Habitat, brano intitolato Daddy Issues, giusto? Sì, ma non abbiamo parlato poi dell'altra parte dei Rat Habitat, che si chiama Jordan Peters, che ha collaborato con Lauryn Hill e anche con Gentle Caglio. Ce l'hai detto? Sì. Possiamo adesso suonare possiamo la musica? Tornare. Possiamo andare. Don't know, 'cause you lied. Who are you? Tell the truth. Just try. Can you hear me? Mi. Soundcheck, il suono della musica. Duro, il brano proposto dai Brass Tracks, sezione fiati che arriva da Brooklyn, New York, e da quando ho ascoltato questo brano, praticamente sono 3-4 giorni che questa melodia continua a frullarmi nel cervello, me lo sta spaccando, ma questo è un po' il metodo che utilizzano i nuovi artisti americani, soprattutto di puntare su in qualche modo a una sensazione ipnotica che deve dare la musica, e ci sono riusciti anche loro. Eh sì, rimane sicuramente in testa. Questo duo è formato da Ivan Jackson e Conor Rain, e anche nella ritmica di questo pezzo avrete rintracciato sicuramente il lavoro di J. Dilla, che anche qui si sente parecchio. Sì, ritmica scarna, e poi l'utilizzo anche della tecnologia del suono, un suono particolare che avrà ingannato anche i radioascoltatori di Radio 24, perché a un certo punto dell'arrangiamento un filtro chiude completamente il suono, e credo che gli amici avranno pensato a un guasto all'emissione di Radio 24. No, non c'è nessun guasto, è proprio la visione sonora dei Brass Tracks per questo brano intitolato Corduroy. Tra l'altro ragazzi che si stanno facendo conoscere, molte collaborazioni per loro, come tantissime collaborazioni ha alle spalle un altro musicista che oggi vi proponiamo, che è un batterista molto quotato nell'area di Chicago, ovvero Micaiah McRaven. Sì, è veramente anche lui è una ritmica pazzesca, un attacco micidiale. Molto quotato anche dalla critica, perché è super attivo sul circuito dei live, perché suona veramente qualsiasi cosa. Sì, praticamente andando a Chicago almeno 3 sere alla settimana, nelle ritmiche delle varie band trovi Micaiah McRaven. Sì, come minimo. E infatti, tra l'altro, questo il disco da cui è tratto il brano che poi andremo ad ascoltare è il frutto di ben 48 ore di registrazioni su improvvisazioni in una sola venue, cioè in un solo posto, che poi sono state remixate, renderizzate, rieditate. Quindi lui, cioè, suona in questo posto per, penso, veramente settimane intere. Dunque, Micaiah McRaven ha all'attivo proposte discografiche e concerti con Archie Shepp, Yusuf Lateef, quindi per citare due artisti del jazz contemporaneo della vecchia generazione, quelli che hanno spinto in avanti sulla composizione e sugli arrangiamenti, ma anche con i Soul Live, quindi già si sposta su un genere un po' più funk. Ha suonato con Marcus Strickland, sassofonista della nuova generazione, con l'organista Tony Monaco, Bobby Broom e Lionel Lucky, due eccellenti chitarristi molto diversi fra di loro, ma insomma, per dirvi che è un ragazzo versatile che si diverte. Si è divertito molto, proprio come dicevi tu, a realizzare questo nuovo album. Il brano che vi presentiamo, Finances, anche questo punta sul groove, groove ipnotico. Sì, si sente anche la sua formazione hip hop, perché da ragazzo è una band hip hop che ha aperto addirittura i concerti anche di 50 Cent, per dire. Eccolo qui, Micaiah McRaven al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Siamo arrivati più o meno alla conclusione di questo appuntamento con la voce di un altro talento americano, Lauren Desberg. Ve ne abbiamo parlato presentandovi un classico dal titolo You Go To My Head, con la partecipazione di Gretchen Parlato, dal primo EP di Lauren Desberg. Questa ragazza californiana, diplomata in una delle scuole più prestigiose per quel che riguarda l'arte e la musica lì a Los Angeles, poi decide di trasferirsi alla Berklee School of Music Music di Boston, dove si laurea in musica, in jazz e composizione, e quindi da Boston a New York il passo è brevissimo. Sì, alla Berklee ha imparato più di 200 standard a memoria e tra l'altro è stata una delle poche allieve e artiste a produrre un EP prima della fine del suo percorso di studi. Tra l'altro questo EP è stato prodotto e finanziato da Gretchen Parlato. Infatti è così, e Lauren Desberg approda quindi alla nuovissima produzione. Questo è un album completo che si intitola 21st Century Problems, appena pubblicato e quindi fresco di giornata. Noi ve l'abbiamo presentato intanto con questa composizione intitolata Rocksteady, ma vogliamo chiudere la puntata di oggi con un altro brano di Lauren Desberg, dandovi appuntamento però a domani. Sì, domani alle 3:30. Sempre carta e penna, eh? Sì, sempre, perché ci sono altre. E mi voglio sfogare, sono pieno di note, mio caro Francesco, tantissime novità, e naturalmente ci sarà la seconda parte a partire dalle 19:15, quella un po' più jazz, ma anche domani nella seconda parte jazz ci sono molte novità e probabilmente avremo un ospite, non lo annuncio adesso perché non siamo sicuri, ma credo che parleremo di batteria. Sì, parleremo di batteria, sempre se viene. Sempre se viene, no, ma verrà perché verrà, da batteria, sì. I batteristi devono essere precisi, ce l'hanno nel DNA. Non possono sbagliare. Non possono sbagliare. Allora Lauren Desberg chiude questa puntata del Soundcheck dedicata alle novità. Il brano si intitola He Loves and She Loves, da 21st Century Problems. A tutti voi buona serata. Volevo aggiungere una cosa. Ancora alla fine. Sì, perché in questo brano si nota proprio che Lauren Desberg è appena uscita dal suo percorso di studi. Ha capito, ma io stavo chiudendo la puntata. Ma si fa una domanda fondamentale. Se la fa lei? Che dovresti farti anche tu. Ecco, qual è? Se esiste la possibilità di creare un genere di sintetizzazione, cioè di unione fra il jazz e le forme più popolari di musica. Ecco, come vuoi essere salutato? Dimmelo, no, dimmelo. Con un ciao con la mano. Con un ciao. Buonasera a tutti voi da Giorgio Telesforo e da Francesco Trombo. Love.